falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi parliamo di un grande uomo, di un grande cantautore, di una persona che io conoscevo bene e sono contento che in molti ci abbiate scritto chiedendoci di parlare proprio di lui. Noi ne scegliamo uno per tutti e vi facciamo capire così di chi parleremo oggi. Mi chiamo Piero Tempesti, abito a Rosignano Marittimo e faccio l'imbianchino. Mi piacerebbe tantissimo, Enrico, che tu parlassi di questo grande artista Pierangelo Bertoli. Mi farebbe un grande favore. Grazie. Il grande favore, caro Piero Tempesti di Rosignano Marittimo, lo fai tu a noi, perché ricordare Pierangelo Bertoli è per me un piacere, è un dovere. È stato un cantautore particolarissimo, un vero artista, il cantastorie della canzone italiana. Quindi oggi la puntata la dedichiamo a lui. Vogliamo iniziare con una dichiarazione di colei che per prima ha creduto in Pierangelo Bertoli, la sua discografica che lo ha lanciato. Tra l'altro è una sua conterranea, perché Pierangelo era di Sassuolo in provincia di Modena, è un emiliano doc, e anche questa signora è di Sassuolo. Si tratta di Caterina Caselli in un'intervista del 2012. Quando la poesia è vera non invecchia mai, è veramente. E Pierangelo è stato proprio da questo punto di vista un grande poeta che metteva le note sulle sue parole. È stato, secondo me, sottovalutato. Cioè, Pierangelo, probabilmente la sua carriera interrotta così, però Pierangelo ci ha lasciato in eredità delle pagine di musica e di testo che veramente sono notevoli, e quindi spero in futuro, insomma, che ci siano spesso anche, diciamo, opportunità che possono far magari per alcuni che non lo conoscono proprio ritrovare un Pierangelo Bertoli che ha dato veramente tanto di sé. Beh, allora la nostra puntata è una di quelle occasioni che lei auspicava per raccontare di Pierangelo, della sua personale battaglia umana e artistica, una battaglia che lui portava avanti sempre con molto coraggio. Per quei pochissimi che non lo conoscessero, Pierangelo Bertoli, il grande cantautore di cui stiamo per parlare, non aveva una vita facile. Intanto viveva su una sedia a rotelle con difficoltà che aveva avuto fin da piccolo. Questo però non gli ha mai impedito di dimostrare quello che pensava, di combattere. Era uno controcorrente, era uno che non ha mai accettato compromessi con il mondo della discografia, è sempre stato determinato nello scrivere canzoni alla sua maniera, senza pensare alle logiche di mercato, a quello che andava di moda, a quello che faceva vendere dischi. Lo ha scritto in particolare in una canzone che, per ironia della sorte, è diventata invece uno dei suoi più grandi successi. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Pierangelo Bertoli nasce il 5 novembre 1942 a Sassuolo, in provincia di Modena. È una terra importante nella sua evoluzione, sarebbe stato sicuramente diverso se fosse nato da un'altra parte. Di Sassuolo, come abbiamo già detto, è originaria anche Caterina Caselli, più recentemente anche Neck è di Sassuolo. Ha una densità di cantanti altissima questa città. Lui nasce da una famiglia operaia è una terra molto politicizzata, la lotta operaia è molto sentita. A soli 10 mesi lui viene colpito da una forma molto grave di poliomielite che lo priva della funzionalità degli arti inferiori, lo costringe a muoversi su una sedia a rotelle per tutta la vita. Malgrado la disabilità molto grave, vive un'infanzia relativamente regolare, come racconta lui stesso. Io ho avuto un'infanzia decisamente felice, magari perché sono stato fortunato, sono cresciuto in un cortile, eravamo 7-8 bambini più o meno tutti della stessa età, beh, non c'era nessuna discriminante, a parte che magari non potevo giocare al football come gli altri, io sono un appassionato, e però non mi sono mai sentito molto handicappato nei confronti loro, forse anche perché ero il più grosso, quindi quasi tutte le cose che facevamo ero in grado di farne, insomma, a parte forse alcune. Voglio dire, io mi arrampicavo sugli alberi, no, per cui non ho avuto un'infanzia infelice. A casa Bertoli non c'è povertà, però non c'è certo il superfluo, non hanno la radio. E la passione di Pierangelo per la musica lui la matura all'esterno, nei bar, in casa di qualche amico e più avanti grazie al fratello Gianni che durante gli anni 60 si riunisce con gli amici nella cantina di casa per suonare. Arriva fino a 25 anni quando gli prestano una vecchia chitarra, inizia a suonarla da autodidatta, nel giro di pochi mesi la usa per comporre le prime musiche di accompagnamento ai suoi testi, perché per lui sono i testi quelli che contano di più. Io ho imparato a suonare la chitarra e a fare anche dei motivi per cantarci sopra delle parole. Mi piace cantare e mi piace raccontare, quindi ho scritto le canzoni, penso, per quello. E poi perché non mi piacevano le canzoni che in genere si sentono in giro, insomma, non dicono mai niente. Beh, ha le idee chiare. Nei primi anni 70 lui entra nell'Unione Comunisti Italiani, poi fonda un gruppo con altri musicisti militanti del partito, il Canzoniere del Vento Rosso. Pubblica con la casa editrice del partito, che si chiama Servire il Popolo, alcuni 45 giri. Poi nel 1974 c'è il suo album d'esordio, Rosso, Colore dell'Amore. L'anno dopo, nel 75, il secondo album, Rocka Blues, che contiene il suo primo vero successo, Eppure Soffia. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Il falco del Gabbiano. Siamo arrivati al secondo album, Rocka Blues, di Pierangelo Bertoli. Però nel frattempo la casa editrice Servire il Popolo, che fa capo al partito a cui si è iscritto Pierangelo, l'Unione Comunisti Italiani, si è sciolta. Lui non ha più un editore, trova un altro produttore che crede in lui, si chiama Carlo Alberto Giovanardi, che peraltro è anche il presidente della squadra di calcio della Sassolese, cioè allora non siamo ancora al Sassuolo che oggi è in Serie A. E quindi vede la luce grazie a lui questo Rocka Blues. Però poi c'è un altro amico, un amico musicista di Bertoli, si chiama Alete Corbelli. Negli anni 60 era stato la chitarra di Caterina Caselli, così la rintraccia e fa ascoltare questo album alla cantante, che però non è più una cantante, è la moglie di Piero Sugar, che è il proprietario e direttore artistico della CGD, era il figlio del mitico Ladislao Sugar, che aveva comprato la CGD dal fondatore Teddy Reno. E la CGD in questo momento è una casa discografica tra le più potenti del panorama italiano, era anche la mia casa discografica in quegli anni, e Caterina Caselli si ritaglia un ruolo sempre più importante di produttrice, di scopritrice di talenti, una caratteristica che la porterà più avanti a scoprire gente come Bocelli, come Elisa, come I Negro Amaro. Comunque questa cassetta arriva sulla sua scrivania, lei convince il marito a proporre un contratto proprio a Pierangelo Bertoli. Ecco che cosa la colpì. Intanto la sua voce, la sua personalità, Perché oltre alle canzoni che ci ha, che naturalmente ci ha lasciato come testamento, che non moriranno mai, ma Pierangelo, appunto, quelle canzoni sono frutto di una testa, di un valore, di una persona che pensa in un certo modo, che ha quella forza anche di a volte di andare controcorrente, e con la motivazione, cioè lui praticamente sosteneva i suoi discorsi, magari qualche volta io non ero tanto d'accordo con lui, però era bello capire dall'altra parte che c'era una persona che motivava il suo pensiero, la sua filosofia di vita, e quindi è bello, insomma, da questo punto di vista mi è mancato molto, non ho trovato nessun altro che fosse così come Pierangelo, era proprio unico. Beh, unico è l'aggettivo più importante che si può dire per un artista di questi tempi, dove tutti si assomigliano un po' tra loro. Bene, Caterina Caselli crede in lui. Nel 76 esce l'album Eppure Soffia, che soprattutto grazie alla title track, che è un inno all'ecologismo, inizia a farsi conoscere dal grande pubblico, anche se ci sono dei problemi, perché quando Bertoli va in televisione deve essere sempre inquadrato dalla cintola in su, perché la sedia a rotelle viene giudicata inopportuna nei programmi televisivi. Comunque, l'anno dopo la Caselli decide di fondare la sua casa discografica per dedicarsi interamente all'attività che le è più congeniale, quella di Talent Scout. Nasce l'Ascolto, che è, come dire, una casa discografica parallela alla casa madre CGD. Proprio per l'Ascolto viene pubblicato il nuovo album di Bertoli, Il Centro del Fiume, che poi ho rinciso anch'io anni dopo con Andrea Mirò. Abbiamo detto in apertura che per Pierangelo Bertoli la sua terra riveste un ruolo veramente importante, sia nella carriera che nella vita privata, perché lui è molto attaccato alla sua Emilia. Nel 78 realizza un album che in quel momento è un po', come dire, poco opportuno dal punto di vista del mercato, ma si sa, a lui non piacciono le imposizioni, e lui realizza questo album esclusivamente con canzoni in dialetto modenese. Sat ven in ment, cosa ti viene in mente, dove nella canzone L'Erminia Tempa André duetta proprio con Caterina Caselli, molti anni prima di tutti i folk singer dialettali che in questo momento nascono come funghi. Sono la testimonianza a queste canzoni di un amore sconfinato di Bertoli per la sua terra, un amore ricambiato, come avrà modo di dire lui stesso in occasione dei 25 anni di carriera nel 2000, quando il Teatro Carani di Sassuolo lo festeggia con un concerto molto commovente. Io ho anche scritto una frase che era «Nemo profeta in patria». Per me questo non vale, non lo so perché, ma io la forza l'ho spesso trovata da Sassuolo e dai sassolesi. Il 79 è l'anno di A Muso Duro, uno dei suoi album più noti, lo fa conoscere al grande pubblico, contiene la canzone omonima, che è il suo manifesto di uomo e di artista. In quello stesso periodo Pierangelo conosce Bruna Pattacini, che diventa sua moglie e dalla quale ha tre figli, Emiliano, Petra e Alberto, di cui parleremo dopo. Ho conosciuto mia moglie ad un concerto. Lei è venuta, mi ha chiesto, veramente mi ha preso, c'era un'agendina, mi ha preso l'agendina da sotto e ha preso la data più prossima alla sua città, che è Reggio Emilia, ed era un mese dopo, e poi al concerto successivo è venuta di nuovo e senza, praticamente non abbiamo parlato, e alla fine di questo secondo concerto è arrivata lì e mi ha invitato a casa sua per la sera dopo. Mi ha chiesto: vieni a cena a casa mia domani sera, e io gli ho detto di sì, e due mesi dopo viviamo insieme. Nel 1980 esce l'album Certi Momenti, un altro album importante. Intanto c'è la canzone che dà il titolo all'album, Certi Momenti, che affronta il tema dell'aborto, che è un tema delicato in quegli anni. Lui si schiera apertamente contro la Chiesa Cattolica, responsabile di un certo modo ottuso di pensare, che riguarda da vicino anche quelli come lui, i portatori di disabilità. No, io credo che la maggior parte di queste difficoltà, le difficoltà che si credono gli handicappati, sono più nella testa e nella cultura che nella realtà. Ci sono delle difficoltà oggettive, voglio dire, salire su un palco alto 2 metri è una difficoltà, ma si supera, ci vogliono 2 persone, gli danno una mano e vai su, insomma, non è così complicato. Le difficoltà stanno nella cultura italiana, credo, la cultura cattolica principalmente, questa è una mia opinione, non voglio vendere quello che non ho, ma il pietismo, in questo atteggiamento di, non lo so, credo che tutti abbiamo degli handicap. Aspetto altre cose, sarò io a aiutare te, molto semplicemente, questo dovrebbe essere uno scambio tra persone, molto sereno e molto paritario. Ora, io ho sempre detto che l'immagine dell'ometto fuori dalla chiesa che piglia le 100 lire e ti fa guadagnare 10 anni di purgatorio è abbastanza distorta. Ma c'è un altro motivo per cui l'album Certi Momenti è un passaggio fondamentale nella carriera di Pierangelo Bertoli e non solo nella sua, perché in questo album c'è una canzone che lui canta con una ragazza che io conosco molto bene, che allora era semi sconosciuta e con la quale Pierangelo canta un duetto stupendo che darà a entrambi una grande popolarità. La canzone è Pescatore e la ragazza è Fiorella Mannoia. Signore, dimmi che tornerà l'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io ed il nero un triste colore, la mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un grande uomo e di un grande cantautore, Pierangelo Bertoli, Emiliano Doc. Vive la sua disabilità con molta serenità, ma anche con spirito molto battagliero, parte legato al Partito Comunista al quale era iscritto e a una casa discografica parallela alla sinistra di quegli anni, però in realtà poi ha una sua svolta dal suo incontro con Caterina Caselli, anche lei di Sassuolo, che ha una etichetta che si chiama L'Ascolto, che è una etichetta parallela alla CGD, e quindi arriviamo ai suoi primi successi. Intanto Piero Tempesti, che è l'ascoltatore che abbiamo scelto tra i tanti che ci hanno chiesto questa storia, ha qualcos'altro da raccontarci. L'unica volta che ho visto Bertoli, che è stata un'emozione particolare, ho fatto l'autografo su una camicia, che quella camicia lì è rimasta nell'armadio per sempre. Non è mai sortita, non è mai lavata, non è mai stata toccata. Purtroppo non ho avuto modo altro di vedere altri concerti suoi. E questa cosa mi è rimasta un po', mi ha dato noia. Quando seppi che era morto, era come fosse morto un mio vicino di casa, un carissimo vicino di casa. Sono stato male 3-4 giorni, proprio male, male, nervoso. Insomma, mi ha dato proprio noia. Secondo me è stato un grandissimo artista. Eh sì, Bertoli è proprio un grandissimo artista. Siamo arrivati al 1980 quando canta una canzone molto bella e intensa, scritta da un giovane paroliere, Marco Negri. La canzone è Pescatore, in anni in cui i duetti non è che andassero molto di moda. Intanto l'album Certi Momenti arriva a 200.000 copie, che anche in anni in cui si vendevano molti dischi è comunque una cifra più che ragguardevole. E lui esce dal cliché di cantante di folklore in cui era entrato per i dischi in dialetto, esce dal suo cliché di cantante super politicizzato per spiccare finalmente il volo. E a proposito di volare, c'è una bellissima intervista che Enzo Biagi fa a Pierangelo nel 1983. Una volta Eleonora Roosevelt mi raccontò di suo marito che era stato colpito dopo i 20 anni dalla poliomielite e mi disse che il giorno in cui andò eletto presidente degli Stati Uniti a fare il discorso al congresso, Franklin Delano Roosevelt sembrava che volasse. Nella sua vita c'è mai stata questa sensazione di essere al di sopra delle cose? Quando sono su un palcoscenico, quando riesco ad estraniarmi. Io sono abbastanza una persona, voglio dire, che attaccato alle cose fisiche, alle cose reali, però quando sono sul palco che canto, sì, lì volo, certamente. Ma Bertoli è anche un uomo libero, così nel 1984 nel suo album Dalla Finestra scrive una canzone che si chiama Varsavia, che è un atto d'accusa contro il totalitarismo del blocco comunista sovietico, la repressione del generale Jaruzelski in Polonia, perché è uno che prende le sue decisioni in totale autonomia intellettuale. La sua attività discografica non conosce interruzioni, ma lui è molto sensibile anche alle problematiche collegate alla disabilità. Per questo nel 1989 accetta di partecipare a un progetto della Lega per l'emancipazione degli handicappati e interpreta lo spot Le barriere architettoniche, me lo ricordo, era molto bello. In questo spot, con il patrocinio di Pubblicità Progresso, Pierangelo interpreta il ruolo di un uomo sulla sedia a rotelle che di notte assiste a un gravissimo incidente di moto e non può chiamare l'ambulanza perché la cabina telefonica è troppo stretta per poter entrare con la carrozzella. Per la sua partecipazione a questo spot, lui vince anche un ambito riconoscimento dell'epoca, che è il telegatto. Potrò dire che i miei giorni li ho vissuti. Grazie anche a Pierangelo Bertoli, alcune barriere non ci sono più. Il 1991 è un altro anno chiave, è l'anno della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il gruppo sardo dei Tazenda del grande Andrea Parodi e insieme interpretano una canzone in lingua sarda, Desamparados, della quale Bertoli riscrive il testo in italiano e la trasforma nella bellissima Spunta la luna dal monte. È una partecipazione grandiosa, spesso i più grandi non vincono a Sanremo, vince Cocciante, ma l'interpretazione di Bertoli con i Tazenda è talmente intensa che al termine il pubblico li acclama, li fa tornare sul palco, impedendo alla presentazione Edwige Fenech di proseguire nella gara. Bene, allora siamo arrivati, come lo dicevo prima, al momento della danza che veramente ha costituito quest'anno uno spettacolo dello spettacolo. È un'ovazione che va avanti per parecchi minuti, tanto che Bertoli e Tazenda devono rientrare sul palco per ricevere ancora applausi, che è una cosa veramente rara nella Festival di Sanremo, che a volte è anche un po' freddino da parte del pubblico. Bene, Spunta la luna dal monte è, come dice il suo autore, una canzone vera. Io credo che si possa fare un Sanremo come succedeva una volta, no? Come vero e proprio palcoscenico della canzone italiana nel mondo, mentre invece negli ultimi 20 anni non è mai stato. E quindi io sono venuto con questa intenzione, cioè di almeno di cominciare insieme a alcuni altri miei colleghi, partendo da una canzone vera e non da un prodotto che è una specie di sottoprodotto, cioè quello che si chiama la canzone di Sanremo, no? Io ho fatto una canzone vera con l'intenzione che rimanga nella mia scaletta, nella mia storia, e non una canzone per Sanremo che domani la butto via. Qui qualcuno l'ha definita, le ha definite canzoni Kleenex, no? O radiojet, insomma. Ecco, non sono d'accordo su questo tipo di canzoni perché in realtà non servono a niente. ha ragione, anch'io dico sempre che a Sanremo ci sono tre classifiche, c'è la classifica quella, le giurie, il televoto, eccetera, poi c'è la classifica dei dischi, ma soprattutto c'è la classifica del tempo, che è una falce su un sacco di canzoni che vengono dimenticate, soprattutto negli ultimi 10-15 anni. Bene, le canzoni di Bertoli sono sicuramente canzoni che non sono usa e getta, e Spunta la luna dal monte rimarrà come testimonianza del fatto che anche a Sanremo si possono cantare grandi canzoni. Pierangelo Bertoli non c'è più da tempo, è morto il 7 ottobre del 2002 a causa di un tumore ai polmoni, ha continuato a scrivere canzoni, a fare concerti e anche a portare avanti discorsi molto importanti. Abbiamo una persona ben titolata a aggiungere qualcosa a tutte le nostre dissertazioni su Pierangelo Bertoli. Abbiamo un grande cantautore, musicista molto promettente, che sta facendo cose molto interessanti, ma che ha la fortuna e l'onere di chiamarsi Alberto Bertoli, quindi il figlio di Pierangelo. Ciao Alberto. Ciao Enrico, ciao. Ascolta, io non ho sempre paura a fare le domande scontate in questi casi, quindi non ti chiederò un ricordo. Vorrei che tu, da cantautore a cantautore, mi parlassi del cantautore Pierangelo Bertoli visto da un altro cantautore. Allora, è una bella domanda, perché in effetti io, quando penso a mio padre, penso sempre dal punto di vista di essere figlio. Certo. Invece lui professionalmente era incredibile, perché fino a quando era più giovane scriveva anche le musiche, poi si è concentrato soprattutto sui testi e la revisione dei testi continui di quelli che aveva scritto, cioè lui prima scriveva di getto, proprio sembrava che qualcun altro gli dettasse, sì, le parole. Poi dopo i testi venivano scritti e riscritti tantissime volte. Mi ricordo una volta che avrò avuto 14-15 anni, era su una parola che secondo lui suonava male e non funzionava, e sono uscito, che saranno state le 14 del pomeriggio, sono tornato verso le 7 e lui era ancora lì su quella parola e dice: questa parola non va bene. Aveva fatto una lista di parole con le quali poteva sostituirla, ma nessuna gli suonava bene, no? Quindi era molto meticoloso. Qual è secondo te il suo manifesto sonoro, la canzone che più lo rappresenta? Tutti pensano che sia Muso Duro, invece la canzone che lo rappresenta di più dal punto di vista musicale e della sua storia sicuramente Pure Soffia. Eppure Soffia, anch'io sono d'accordo. A Muso Duro è perché è la più battagliera, insomma, già nel titolo, quando noi pensiamo al Pierangelo, uomo da battaglia, uomo che si prende le sue responsabilità, uomo che va all'attacco, viene in mente A Muso Duro. Però anch'io voterei Eppure Soffia. Tuo padre è stata una persona incredibilmente generosa nei sodalizi artistici. Ci sono molti artisti che sono stati, non dico lanciati, ma comunque hanno fatto tra le cose più importanti della loro carriera proprio con tuo padre. Mi vengono in mente i grandissimi Tazenda, per esempio. Mi viene in mente che uno dei primi successi di Fiorella Mannoia fu Il Pescatore. Che cosa lo spingeva a fare così tante cose con altri? Lui era molto propenso a aprirsi con gli altri. Sicuramente la cosa che mi viene in mente è il momento di Luciano Ligabue, quando pagò di tasca il disco che nessuno voleva produrre, e certo, poi Angelo Carrara andò a proporlo in giro. Io credo che la sua apertura fosse quella del fatto di aver subito la difficoltà dell'inizio, che è una difficoltà che vivono tutti quanti, però lui probabilmente su una sedia a rotelle, certo, molto di sinistra, quindi probabilmente anche questo aiutava a fatto di essere messo da parte. Parlami del premio Pierangelo Bertoli. Il premio è appunto nato per questa motivazione qui, per riuscire a dare a quello che si vuole ancora definire come cantautore, che chi si è iscritto al premio delle nuove proposte è veramente dotato. Io sono molto contento, perché viviamo questo momento dove sembra che non ci sia niente da dire, invece c'è molta gente che ha molte cose da dire. Bravo, vero. E poi è coronato dall'intento di premiare i grandi artisti, per riconoscere un impegno alla canzone di penna, cioè di autografa, per privilegiare quelli, certo, che assomigliavano a mio padre, cioè quelli che hanno fatto la loro storia, e quindi insomma deve essere un grande artista della musica italiana. Il vincitore della prima edizione del premio Pierangelo Bertoli è stato Eugenio Finardi, che lo ricorda così. Me lo ricordo come un cantautore militante, forte, come proprio... Adesso non ce ne sono più, proprio un essere che in tutti i suoi ambiti, dalla musica alla vita, era un uomo che lottava, era un uomo proprio a muso duro, no? Proprio letteralmente, credo che quella proprio sia la miglior definizione che si sia dato e che si possa dare di lui. Era uno che affrontava tutto di petto e con grande cuore. Sì, era un condottiero, un lottatore, era un combattente e un militante, cioè uno che, intendo militante come uno che non solo ci metteva le parole ma ci metteva i fatti. Beh, forse la canzone Spunta la luna dal monte è la più famosa di Bertoli e contiene un messaggio di speranza che prima o poi la luna spunti da questo monte per ciascuno di noi e ci illumini. Ma lui sulla luna dice ancora un'ultima cosa. Io sono stato un grande amante della letteratura di fantascienza, quindi spesso penso che da ragazzo nel 57, quando lanciarono il primo Sputnik, no? Pensavo che saremmo andati presto sulla luna. Mi sarebbe piaciuto, io sono curioso, mi sarebbe piaciuto andare a visitare questi posti. Oppure penso che l'abbiamo mai presa molto seriamente questa luna, no? Che ha tante influenze su di noi e ce lo stiamo dimenticando, no? Ma se il Lambrusco vuoi che spumi, devi imbottigliarlo con la luna giusta, se no non spuma. Pierangelo Bertoli è stato un uomo che ha lasciato un grande segno nella storia della canzone italiana. Sono molto contento di averne parlato. Se volete mandarci altri commenti, altre proposte, fatelo. Scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure sul nostro sito radio24.it oppure venite a cercarmi dove vi pare, sui vari social. Se volete mi trovate. Ciao, a domani.